vicino. No, negativo, perché? Via, avanti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Aspetta un attimino che sono anche... Perché, come sta arrivando, male? No, no, di alcuni segnali, due segnali di uno solo, va. Quanto c'ho, perché? Croce lineare, 9... quasi 9,20, croce lineare attaccato. No, negativo, liscio, liscio. Secondo me stai uscendo così forte pure tu. Cappa. Non ho fatto niente, sto usando un coso. L'Intec sto usando, non ho fatto nulla. L'Intec con che microfono? Perché c'è questo bippi? No, oh, è lei, non ha nulla il microfono. Il microfono c'ha qualcosa per il canale. È la radio che fa tutti i comandi. Adesso non ti piace, te lo tolgo. No, va benissimo, lascia. Non è esagerato, già va bene. E quindi sta arrivando 9,20, Fabri. Sì, ma già vai bene, dai, ottimo abbondante, ottimo per la truppa. Sì, togliti però l'attenuatore. Togliamo l'attenuatore. Quindi raga, non ti posso arrivare 9,20, sono qua in via Rockefeller, come faccio ad arrivarti 9,20? Mia. Ma vai a lui, che lo conosco di pinto. Ciao Mambo. Buonasera anche a te. Tu sei più forte però, qua arrivi sempre più forte, arrivi. Qui sei quasi a fondo scala. È perché c'ho 7 cm in più di grosso, hai capito? Un piccoletto. Perché, ma vedete che sei proprio nella direzione mia, perché sei sempre arrivato forte qua, anche quando c'è il laringo. Ma è la posizione comunque. Ma io non so quanto arrivo a casa tua, però secondo quanto è così proprio in quella zona, favorevole. Allora, la radio tua è ottima, aspetta scusate, volevo vedere la cosa. La radio tua è lo passo. Vado. Sentiamo se il 995 qua. Non è male, no, non so da Antonio quanto è. 95 lo stesso. Ora. Non è male, dai. Va bene. Vai un attimino, Fabri. Guarda se lo faccio. Dai, non lascia perdere, Antu. Non lo passo? No, Fabrizio ti crepa proprio qua. Ti tengo appena... Oh, nemmeno con 600 watt mi passi. Non gli dire queste cose, quanto scommetti che così ti accartuccio? Cioè, se è così ti conviene smontare tutto, eh. Allora, dai, dammi tempo, del tempo 10 minuti e ti faccio vedere cosa significa, eh. Allora, guarda che sono curioso. Non offendere niente, però qua arriva veramente forte qua a casa mia, eh. No, ma infatti lo sai dove... L'ho piazzata insieme l'ultima l'altro giorno che abbiamo messo sull'antenna che me l'aveva buttata giù sul vento e l'ho abbassata leggermente perché era troppo alta. E lo sa lui perché io sono tutto libero, sono alto, io domino tutto l'acqua, capito? Dopo tutti i fatti dovunque arrivo sempre a bomba. Cappa. Ma dove sei proprio... Cioè, sei proprio nella direzione mia. No, ma il mondo è così da tutte le parti, capito? Io ce l'era in giorno passi sotto calore delle lanterne e rendi conto perché dove sono. Io una volta che salgo sul terrazzo ve lo porto. racconto, e con la via, con la di, però non voglio continuare. No, non sono il numero uno, che buona la zona qua, c'è tutto libero, libero, libero, non ho nessun ostacolo. E della città qua dove basta. Ascolta, Bombo, cosa ti sta arrivando, più forte io o lo sparviero? Buonasera, Cla. Purtroppo sei sempre più forte tu qua. Scusa se voglio... Buonasera, Claudio. È il numero uno della città, lui, Antonio, oramai è il numero uno della città, capito? La gente ci va, ci siamo trattati, ci attacca con le diare, ti scelvi te giù. Vabbè, senza allineare, grazie al cavolo, anche io sei convinto di avere qualcosa, ma non ne vale la pena qua, è tutta roba sprecata, no? Qua, meglio da altre parti, quella roba lì. Ma sì, quanto è il tonnello con pugno, cazzo, è assurdo, capito? La radio starà scoppiando, starà, infatti la modulazione non è bella limpida, mi dispiace, te l'ho sempre detto, ma quando l'hai toccata io sto andando con 20 watt, 30 watt modulati, perciò non me ne affronti più nulla, però la dimostrazione è che siete tutti bravi in città, poi fuori dalla città siete zero completamente. Comunque qua Antonio ti crepa, qua a casa mia. E immaginati quando solleviamo l'antenna di Antonio, quando crepa tutti quello da lì, Non so, se parlate tutti e due assieme io non capisco niente, quindi per me avete lo stesso segnale. Vabbè, divertitela, dai, sono in quel Rix. Ciao Antonio Bongo. Ciao Claudio e buon Natale. Cappa, no, qua non volevamo dire niente in particolare. Volevo solo dire che lui sicuramente ha aperto il varco per questa zona, per quello che mi arriva così forte. Non volevo dire niente di particolare, capito? Ma ci mancherebbe altro, non stai scherzando. Io non sono mai stato nessuno, a me mi va bene così. L'importante è che io arrivi in tutta la Sardegna, non a Sassari. Poi a me di Sassari, l'importante è farmi sentire. È bello che riesco a coprire una bella fascia della Sardegna, poi bisogna vedere che cosa riescono a fare gli altri, è quello l'importante. Va bene, dai, sono qua in Corix. Ciao, purtroppo io non posso avere competizione con nessuno perché la mia situazione è questa. Quando avrò un'antenna grande pure io potrò dire, qualcosa l'ho fatta. Ok. Avanti un po'. Vabbè, guarda che cacca di solito asino, cazzo, se ne va e non dice niente. Oppure non lo so cosa sta facendo, non so cosa sta facendo, Bombo. Sperimentando qualcosa. Un po' di vitamine sta prendendo, te lo dico io. Cappa. Ok, dai, vi devo lasciare perché mi hanno chiamato. Ce la risentiamo dopo, dai, se coincide. Ok, dai. Sentiamo dopo. E tu lo vedi, Claudio, a casa? No, io sono rientrato poco fa. E sono anche abbastanza stanco, dai. Già ci sentiamo, state bene. Ok. Hola, hola, hola. Ciao, Cla. Mi hai sentito, Ciao Anto, continuate, sono ancora in corizio, vi ascolto. Quello che sto provando Anto? Adesso sono col piccolino. Bombo, guarda come ti sta arrivando. Perché ha chiuso. Ha chiuso perché non ha problemi che gli rompi più lo spinta. Ora. Come sto uscendo? Un po' barattolino. Questo qua, scusa, aspetta un attimino, guarda. Ma lo sai che non succede niente qua, anche peggiori. Aspetta un attimo, dammi due minuti di tempo. Sì, già ti dico, ma devi provare con qualcuno più lontano di me. Guarda come ti sta arrivando, hola. più distante. Da così invece se va meglio. Così va benissimo. Però io ti sento male, ti sto ascoltando male, prova a venire avanti. Ma come sempre mi ascolti male da lì, c'hai il problema del... anche io ti sento male, capito? Quando attacchi l'altro ti sento male, ti sento tutto saturo. Perché c'ho la cassa di questo baracchino che è crepa crepa, capito? Guarda, quando ti sento con l'altro, una cosa che c'è tu, quando con l'altro cresci come me intorno ai 20 e gli altri modulati, allora ti sento... abbiamo trovato un attore per avere una buona radio tu, ma è normale, ecco, lo siamo attaccati. Guarda un attimino adesso, ora, ora, ora. Adesso vai meglio forse. Vado meglio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quanto sono di segnale? No, segnale a bomba, però non stai distorcendo, dai, non stai saturando. Pagava. Devo attivare quello che ti sto dicendo, perché comunque siamo attaccati, quindi qua non stai saturando, va bene. Vado a fare una chiamata a qualcuno che c'è. Attenzione al canale 10, se c'è qualcuno venga avanti, Campiù. Papà di Roger, ben sentito e ben ascoltato, Sandro Conan. Papà Sandro, guarda un attimino se Fabrizio riesce a passarmi. Sì, aspetta un attimino, Attenzione. Ola, ola, ola, se lo crepo, ola, ola, ola, ola, ola. Sera. Ola, ola, ola, ola, non c'è più. Non il proprio che mi vuoi schiacciare, e c'è la... Ola, ola, ola, ola, ola, se lo crepo. Capito? E sono alla terza. Ne vuoi un'altra crepata? Sì, c'è ovvio che mi crepi, no? Però io il dio della frequenza, io! Amen! E che sta uscendo con tanto di quella roba che crepa crepa, hai capito? Sono una potenza di 4, se vuoi ti do, anzi di 3, di 3, di 3. Ah, va bene, già va bene. Basta così, dai, giocare. Ui, ui, ui. Ha chiamato. Sandro, tutto bene? Mi vedo che sto attaccato a vedere se lo schiaccio. Prova adesso. Aspetta, non ho capito, hai attaccato qualcosa? Attacca tutto, che bruci tutto lì. Ciao Sandro, buon Natale. Ciao Sa, ciao ciao. Ma di la verità adesso, non ti senti un inferiore? Eia, che giro molta notte, che mi arriva forte qua, credo io. Sandro, cazzo, da giro, va bene qua. Va visto. Vabbè, sì, non ci dormo stanotte, anzi, ti pongo anche il saluto adesso a te, maledetto, cazzo. Gli saluto intanto, il problema è che vedrai che tirata su, con l'antenna va nei gaggi. Vai a aprire, Andrea. Che pittino, speriamo di no. Di la verità, certo, come quel lavoro che abbiamo fatto. Ok. Aspetta, sono passati di nuovo con le cose serie. Com'è? Fatto bene? Aspetta un attimino. E torniamo. Vanno a fare i matti. Ok. Le cose quando si fanno bene, compa. Il problema è proprio quello. Tu le cose le avevi fatte male, con i tubi in Caltagnola, volevi fare il coso, il dio della situazione, bastata una forata di vento e te l'ha tracciato tutto. Ma anche Marconi, anche Tesla ha perso antenne così, eh. No, ma hai visto quel tubo, maledizione, se no quello era difettoso, perché quei tubi che mo non di cosa, ma non era difettoso, non è possibile bene, nemmeno per un'antenna di televisore quella andava bene. No, non è vero neanche quello. Allora, uno, non l'avevi controtirantata, uno. Due, quella lì sono tubi per reggere antenne che non hanno realmente un carico, cioè non rendono, non hanno, il vento non le carica, non riesce a spostarle perché sono talmente fini e pesano talmente poco perché sono tutte in alluminio, per quanto anche l'antenna del baracchino è in alluminio, però hai visto, solo la carica che hai tu in rame pesa un paio di chili. L'antenna quanto pesa tutta quanta? 5 kg? No, non lo so, però molto più grossi, ma che l'antenna era come? Era tirata sopra il centro, tirato proprio quello spessore di 2 metri, quello praticamente che era molto più fino degli altri, capito? Ma quando te ne sei reso conto che si è piegata? Me l'hanno detto, quella di signora fianco, ma a mia moglie, fui scendo da lavoro, sono arrivato, aveva fatto quel vento brutto, capito? E via, ma infatti volevo più usare di quei tubi, via. Oh, nemmeno quelli che ho usato io, perché quelli è assurdo, non vanno nemmeno bene quelli, non perché non vanno bene, ma perché sono lanciati, cioè, l'ho visto ieri, vedo la fatti ieri, minchia, ma non si muove, la poi con quei tiranti che ho messo, sopra, a parte sotto non c'è un video, sopra, al centro e tutto, fatto una bomba, ma proprio il vento di ieri c'era, infatti il mio si spettava l'antenna, cazzo si tirava con l'antenna, cazzo il palo era rigido, ma cosa vuol dire fermo? Ma quel palo vuoi trovare, non va bene, è troppo, già l'hai visto, capiamo di diventarlo, c'è una cosa che monti su, è una sicurezza incredibile, però è esagerato, anche come il tuo, è esagerato. Vabbè, il mio adesso quando lo metteremo non una sezione abbastanza ridotta, non è come quello lì. Quelli là erano un bel pesanti. Cioè lì ormai è possibile che si spetti il capo, ma che si rompa il tubo o che te ne stracci le due gaffe. Però quel tubo non si piegherà mai. No, quelli sono molto importanti, ti ripeto, no, piegare no, quelli no, non li ho mai visti piegare, quelli ne ho visto da anni che ho fatto, quelli sono molto importanti, quindi vengono utilizzati, quelli sono anche marcati, c'è la Uni eccetera, sono proprio, c'è un po' di fatica, però è fatta, la legge è fatta, poi sono anche tanto, se Dio vuole, non dovremmo portarlo in otto, perché adesso con il carrucco, il tiro, scendo giù, no, quindi non problema, non c'è. No, ricordati una cosa, che ti devo stupire e vedrai che ci riesco. B, fammi con la spinetta e vedi che al volo la tiriamo su. Ascolta, questa volta la facciamo non come faccio io. No, come la faccio io va bene, però devi tirantarla anche al centro. Se la tiranti al centro, problemi non ce ne sono, come ho fatto io. Se invece la vuoi mettere solo dei tiranti sotto l'antenna, allora a quel punto, perché se non la tiri ovviamente su come la tiro io, lì quanto cosa ci devi mettere, quanti metri ci dobbiamo mettere lì? Il problema è questo, io stavo guardando stamattina, io dovrei salire 3 metri al di sopra, io ho 2 spezzoni da 3, quindi arrivo a 6 metri dal mio piano di campagna, chiamiamolo così. Però l'ho alto 1,5 metri perché il torrino dell'ascensore è 4,5 metri, quindi uscendo, agganciandolo al mezzo muro che è 1,5 metri, arrivo al paro alla fine della cosa, del torrino. Lì subentra l'altro palo, quindi dovrei essere 3 metri sopra. Io ho paura che il piano di massa dell'antenna, come irradia, mi vada a creare problemi di TVI. Infatti voglio vedere un attimino, perché da lì a 5 metri c'è un'antenna da televisione. Quindi dovrebbe essere più in basso, però, perché c'è un palettino da 1 metro circa. Quindi salendo di 3 metri il piano di massa non dovrebbe radiargli a fianco. No, l'importante è che rimani, no, io sono attaccato, ho visto qua, tanto che rimani più, ho fatto le prove, l'importante è che rimani più in alto, se rimani più in alto problemi non ne hai. Poi dipende come la vuoi tirantare, comunque se tu lo vuoi fare definitivo, facciamo, me ne serve un pezzettino, in quello lì scendiamo e glielo facciamo, hai visto, volto giù, e glielo facciamo proprio perfetto, se la vuol dire, a incastro. Scusami che sto scrivendo una cosa, un attimo. Fai. Guarda, secondo me non c'è neanche bisogno di tirantarlo alla fine, perché sto studiando un sistema, vedrai. Una cosa un po' particolare. E allora capirai la differenza che c'è tra un esecutore e un inventore. Guarda, se la sono in un paio di metri non c'è problema, anche 3 metri forse non c'è problema, va? Secondo me non ci sarà neanche bisogno del coso dei tiranti, perché per la distanza a cui metterò le gaffe non. Se devi mettere a una distanza di 1,5 metri l'una all'altra, se non addirittura ne metto 3. Sto studiando un sistema di aggancio un po' particolare, vedrai. Vabbè, se non. Se il vento lo piega, vuol dire problemi non hai. Cioè, se il vento lo piega? Ho detto, se il vento non lo piega, non dovresti avere problemi. Allora, io mi sono spaventato, ci ho fatto gli scherzi. Ieri, probabilmente viene bene vedere quando c'è il vento, già lo vedo. Ieri mi sono spaventato, quando ho iniziato quel vento di ieri, era una cosa interessante. Mi sono sentito a vedere proprio come si comportava quel bar, quell'antenna, perché non ero sicuro che non scendeva, però ero curioso di capire il vento, ma per vedere il vento come picchiava, lì è proprio il frangoco in pieno, vedi, questa antenna che si piegava, quasi qua quando guardava, si risollevava, si ripiegava, che il tubo era fermo, e per i copilotti che li abbiamo messo al centro, io credo che, come ti dicevo, ero indeciso, però alla fine, quindi non si sa mai, sai, il vento che c'era ieri, che magari sganciava un tirante, oppure con tempo si rompeva un tirante, almeno c'è la sicurezza che ne hai altri tre sotto, capito? Ma se ti rompo un altro, un vento come ieri, ti si rompe un tirante, ma poi inizia a sbattere e lì ti strappa tutto, No, più che altro tu immaginati se ne dovesse cadere quel tubo. Se cade quel tubo dove prende fa danno. A parte quello, vabbè, già ci sono 10 metri di tabacco che già cade lì, lì fa danno se cade. Vabbè, così è. Infatti per quello è meglio tirantarlo, perché per quanto possa andare male, che si rompe, tanto tutto quello, comunque sempre che un po' cade lì, si appoggia e via, se cade del gommetto per la notte, ve ne so. Che crolla un pezzo di muro, non so, comunque lì quando le ho fatte, quelle fatte le avevo fatte io, appena arrivato in notte, voglio vedere tutte le antenne che c'erano lì, c'era un caso di antenna là, l'avevo proprio fatto noi io, ero d'accordo per mettere le antenne sul torrino, per cui sono riuscito a farle mettere una centralizzata, e lì ho fatto queste batterie, l'hai visto, farò il grosso, tutto saldato lì con delle clivi, so come fanno quelle specie di uno, lì ci sono delle zanche che entrano all'interno e spandono quasi il muro dall'altra parte, tutto quanto, e poi sono cementate con delle zanche che si aprono all'interno, quindi impossibile, ormai ci sono anni, è impossibile che ne scendano, perché ci sono due sopra, devi vedere che lavoro era stato fatto. Siamo qui al pari di un albero, di una barca a vela. Il taglio e la leva che viene effettuata sul fulcro è minima, perché nel momento in cui viene tirantata e la tirantatura è equilibrata, perché gli stralli dell'albero maestro, comunque dell'albero di una barca a vela, davvero è una cosa molto difficile da settare, diciamo. Una volta che vengono settati bene, è come se no, davvero non può essere anche non come si dice, gaffato da nessuna parte se l'albero tiene, cioè perché non scarica quasi niente sul collo, una volta che ti è andata bene, l'importante è che siano in equilibrio. No, ma poi oltre a quello io ho visto che anche il aspetta che si è fatto Santa Claus, questo ti piace Andrea? Ascolti, vedi di quello e poi ne cerchiamo un altro proprio. Questo l'abbiamo già visto. Stavo dicendo, praticamente adesso c'è il vincolante a terra come l'abbiamo messo, quindi proprio al terzo vinco, considera che lì sono quasi, saranno 2-3 metri, sono 2,5 metri, 2,60 metri dovrebbero essere, o 2,70 metri, qualcosa, 2,70 metri, quello è il pezzo di tubo che uno erano esagerate per le antenne della televisione. Ma secondo te potevano essere così, in quale previsione? Addirittura così il presidente, sì. No, io ho acquistato lì proprio per quello che ho dato un demotivo, ok? Adesso se mi rompe le palle me ne compro, cambio casa e me ne vado su, E dimmi come che sto venendo una, ce l'ho mai all'asta, come se ne fa la compri e mi hai sotto via, e poi io te la faccio montare io l'antenna, non c'è problema, ti affitto un pezzo del corrido. No, forse non hai capito, che se è guerra, cioè della sera mi cambio casa per romperti le balle, non per... perché mi faccia mettere l'antenna tua sul coso, perché mi dai la concessione, ma stai scherzando? Sai che non c'è nemmeno più gusto su questa cosa, non c'è più nessuno, è morta. Certo, l'abbiamo visto Andrea, ci fosse fatti ai vecchi tempi ci si divertiva, ormai. Corrente ce n'è poca. Tu ce n'è niente concorrenza, ma poi. Non c'è, non siamo quattro gatti ormai, non c'è più gusto. Prima c'era gusto almeno, no? Già c'hai ragione. Perché prima non potevo entrare in competizione. Ma l'ho visto anche io, mica mi ha mai preso, mi ha mai preso uno stavo lineare, niente, non c'è niente, anche troppo quello che riesco a fare, capito? Quindi poi, invece prima era bello perché poi potevi collegare, facevi, c'era gente là fuori, ti serviva un po' di cose, ma tutto l'ho fatto, ormai intorno alla società che c'è solamente ogni tanto una domandero. E basta, non c'è più nessuno, uno, due, tre da Porto Torres, e poi chi c'è? Non c'è più nessuno. Vabbè, perché non abbiamo fatto abbastanza pubblicità, vedrai che il 2012 sarà il vero anno della riscossa. Ah sì, guarda, sicuramente si svegliasse la cosa, mi farebbe solo piacere, ma lo sai, mi farebbe piacere, a quel punto tanto se ho fatto dei lavori, sono solito aspettare, se ho fatto dei lavori quando farò le vittorie, no? Le due camerette, prima vedere adesso cosa meraviglia, se volessi fare le due camerette lì o quando stanno costruendo gli faccio mettere direttamente il traliccio. Ma di quelli elettrici che salgono o scendono, oppure cioè telescopici oppure fisso? No, telescopici, non lo so come, se so che nel frattempo quando stanno costruendo mi faccio proprio installare un traliccio, vado qui come si deve, vedo cosa c'è in commercio, come funziona e tutto, e gli faccio mettere proprio un bel traliccio in fase di costruzione, così sono tranquillo, ovviamente lo metterò. Non so se come li conosciamo, non li conosco, guarda, se sono quelli idrici a Vericello, non lo so, comunque mettere un bel traliccio con la possibilità di tirarlo su e di abbassarlo per fare manutenzione alle antenne. Da parere, se mi dai 5 minuti riprendo la macchina, dai. Ok, e Marisa lo sai che una volta che se non si passa del tutto andrebbe a cercare cioè, da lì il problema non hai, da lì si ha perso tutte le tappe, e se montando il traliccio un domani avendo le cose anche poi parlando la direttiva ti giri dove vuoi senza problemi. Ma da quanti metri il traliccio? Non lo so, non ho esperienza di tralicci, dovrei studiarmelo, lo predispongo, non so se poi sono modulari, che li può aggiungere dopo, oppure una volta che lo sto facendo, lo faccio come si deve, lo metto, non lo so, non ho idea, rapido, dovrei vedere cosa c'è in commercio, non ho idea. Ma di oggi, insomma, vuoi dominare dall'alto? No, ho detto che adesso va più bene così, se domani dovessi riuscire a prendere questa benetta patente, allora ovviamente che mi serve operare su altre frequenze e se questo come si deve, la prima cosa ci monto l'antenne come si deve, ci inverto un po' di soldi in antenne, appunto, non so con di polini che poi il guadagno è relativo, ci monto su una bella direttiva di quelle con i campi e controparti e vedi che non hai più problemi. Alla fine è vero che occupo un po' di spazio, ma non sono tre bollate di fili, di carte, di tutto, capito, monto la direttiva e via. Poi che mettono in cinta da vicina. Cazzo, non faccio cosa, mi uccidono, eh. Cappa, dai, 5 minuti e sto riprendendo la BM. Ehi, qua ho una chiamata, penso volevo vedere se stavo mangiando, ma per farmi la chiamata. rispondo vuol dire che sono seduto a tavola e riprendo fra un po'. Fare oggi. Hola, vediamo. Sì, ci sono. Io sto mangiando un pezzo di formaggio. Attenzione, no, che gaffa. Bombola. Dove qua, sono rientrato. E per me. Fa. Ma cosa fai bene? A rientrare. Mi rimo accompagnando a solo 2 minuti che sto finendo di mangiarmi un pezzetto di formaggio. Oh no. Faccio usaggio. Allora. Oh no. Antonio, dove sei? Sono appena uscito, sto percorrendo via Rockefeller, adesso sto andando nell'altro QTH. Ah, non sai che mi arrivi bene. Non lo so, guarda che sto concorrendo ad essere uno dei più forti della frequenza, adesso è a schiacciarsi. Come vuoi domani che arriva a casa? Padre Roger, guarda il segnale, è una potenza. Ma se ci mettiamo vicino e ti schiaccia anche dalla macchina, cosa succede? Ti suicidi? Perché non mi schiaccia dalla macchina, futi bene. Forse non hai capito che io conosco i segreti della tua stazione, ormai sei niente per me. Ti distruggo. Ti sei reso conto che mentre eri distratto ti ho infilato uno spillo nel cavo, nell'RG 213, vedrai. Immaginati come sto uscendo, se tolgo lo spillo diventa incredibile. Vagabà. Ma guarda una cosa, la maniera della forza bisogna farla con gli amplificatori. Ma lui non è può fare di forza, capito? Gli mancano i muscoli. Ma vedrai, già me li faccio venire. Che io non c'ho antenna, se no più di una volta avete visto il segnalone. Ah no. Come dicevo poco fa, non c'è più busto, bomba, non c'è più nessuno qua, non c'è più busto nemmeno a fare i segnaloni, perché ti servivano per rimanere lì, ma ormai per quelli che siamo, ma non è una cosa buona, non c'è più consumo più portante, non c'è più niente, e va meglio alla fine. Quindi anche quando si arrivi a Santiago 5, una curaggio comprensibile, va più che bene a Sassari. Meglio pochi. Che rompi balle. Meglio pochi, ma buoni, che molti e rompi balle. Scappa. Quanto è? Un mese, più di un mese fa già si rompi balle. Adesso mi sembra che ci sia un pochettino. L'altro giorno me l'ha messa. A rompermi le scatole. Qua la seconda non ce la faceva con Gio Maria. Però agli altri mi disturbava. Mi deve essere qualcuno che c'era con te. Io non ho fatto, ci sono un periodo che ogni volta che come il foglio importante è tu, importante. E uno vicino a te, era il segnale, era un segnale vicino a te. Ma ti crepa. Sì. Eia. Come no? Scappa. Ma qualcosa l'altro giorno gli è andato un bel male, gli è andato con Gio Maria, perché è attaccato a me. Quello sì, però chissà chi, ma tu lo sai chi è almeno questa persona? Se lo so con un capoteggio, è meglio che non lo sappia. Io ho l'impressione che qualcuno, per un segnale che poi io nemmeno conosco, capito? Non è che lo vedo spesso. Scappa. Se mi accorgo chi è, guai. Tu, Ioia. E Pittina. Guarda, dove sei? Ma intersezione via Mendola, via Turatti. A ti crepo, perché vengo lì ti crepo e non ci passare qua sotto. I. Oi. Quando faccio qui devi chiedere il passaporto, mi devi chiedere. Permesso, pagare il dazio. Devi pagare il dazio ogni volta, lo sai. Cava, ma cosa stai mangiando? Solo formaggio. Formaggio e pane. Ma chi sei, il nonno di Heidi? No, uno che si pecca chi suoi. far partire, per carità, grazie. Ma è buono. Avanti. Sembrato Vittorio, se non mi sono sbagliato. No, io non ho sentito, ma non l'ho riconosciuto. Avanti. Fai il buono. Fai il buono, hai ragione, io gli appoggio, hai ragione, a Natale bisogna essere tutti più buoni. Io, ciao Vittorio, ben sentito e ascoltato, tanti auguri. Tanti auguri a tutti, anche sono entrato così, un po' violento, però violento non è violenza, è un messaggio di pace, sperando che qualcuno si ripristini un pochettino, perché un po' di violenza c'è in qualche modo, a te. Ma adesso ho riconosciuto, tanti auguri anche da parte mia, Vittorio. Ma hai conosciuto, ma non è che io sto mettendo portante, io parlo, quando accendo l'apparato non metto la portante, parlo per parlare, perché mi piace parlare, non metto la portante per rompere le palle. Ma ci mancherebbe altro, no? Non abbiamo detto questo, ti ho riconosciuto e ti ho salutato subito. Grazie Antonio, no, ma volevo fare un appunto circa questo, ci sono i portantini, certo, ci sono anche questi, però siccome io non sono un ragazzino, che non lo so tanto che età abbi tu, per carità, però io forse avrò il trepo degli anni tuoi, ma non voglio esagerare, per carità, non voglio dire che bisogna essere educati, tutto qua, ma poi è Natale, non voglio dire altro, a te ancora. No, è perché ti ho riconosciuto e ho voluto solo salutarti, non avevo nessuna intenzione di... Poi stiamo parlando di un imbecille che l'altro giorno stavamo parlando, mi si è messo a fare frutti, pernacchie e cose. Vabbè dai, lasciamo perdere. Avanti, Fabri. Riprendilo, ciao Vittorio, ben sentito e buon Natale. Che fai così, lo so, hai sentito un po' di gente così, dice quel brother che è un po' maleducato, nemmeno a Natale si comporta bene, dai, vieni avanti e cerca di fare da bravo. Lo sapete, io poca educazione ho ricevuta, con la foca anche mussigata, non mi si può dire. Va bene, ma quindi non ce lo dici il menù natalizio della famiglia Manica, qual è? Come ce l'hai? Io di cognome, io mi chiamo Manica. E qual è il menù? Non lo so, qual è il tuo menù? Io? Il dottor Loncino sta mangiando. Vedi, allora vedi, non me ne hai fatto mangiare a me, adesso ti si infrasichiscono i denti. Che vedi, questi giorni faccio assaggiare una cosa ancora più buona se faccio a casa. Dove? Dei gelatini fatti con tipo, sapete, i pasticcini, però fatti di gelato. Ah, di cosa? Il panino, il gelato nel pane? Quello lì è siciliana come cosa, eh? No, non gelato nel pane, gelato i dolcini, che ne so, al posto della crema c'è il gelato. Gava. E chi te l'ha portati? Però un po' spesso, ma insomma, ne ha portati uno che li fa per Natale. Ma a proposito di Natale, cosa vi ha portato Babbo Natale? Dittelo, a girare, vai Fabrizio. Poca roba, roba bella ma poca. Cioè che cosa? No, io non sono più bambino, capito? Non ci credo più a Babbo Natale, quindi non me ne ha portato doni. Tu, a te cosa ti ha portato Babbo Natale? La tavola di Roger, ma è quando l'hai sentito entrando a casa? Come si chiama? Quel computerino, non il computer normale, quello che c'è Android dentro, il tablet, lo conosci? Fai Roger, ma ti ho chiesto se Babbo Natale l'hai sentito entrare. Ah, cosa? Babbo Natale di Dinami. Che bello, contento, più o meno nell'altro, c'è il sistema operativo Android. Carino, dai, non prendi più. K, c'era anche Vittorio, avanti Vittorio. Io ho detto, ti hanno mandato magari il carbone, io sono imperverso con le telefonate, mi stanno... scusate un attimino. Ma grappa, è molto carino, quanto? No, già lo conosco, benino davvero, sì, assolutamente sì. Fabrice. Ma questo tablet è della Samsung? No, è di una marca, che marca è? No, già va bene, già. Addirittura posso usare anche la penna. Molti dicono che non si può usare, non è vero niente. Il pennino, quello internet. Sì, ho capito, no, bisogna che me lo provi, lo prova, perché io sono per Android, perché questo cavolo di iPad è troppo chiuso come sistema. Caffa, ma molto bene Android. Comunque è così. Poi cavolo, Windows, sì, c'è anche Windows 7 e cose, ma basta una penna per farli funzionare, che vado a Windows 7, questi qua funzionano, moderna, un pennino di quelli. Funziona, ma funziona anche con la rete di casa, io sto usando la rete di casa con il wireless. È così. Ehi, già va bene, cioè, scusa un attimo. Io se riprendo al QTH un attimo. Ho io un USB pad. A te l'hanno regalato, Vittorio? No, a te l'hanno regalato. A me? Te l'hanno regalato il pazzo. No, io non l'ho regalato. Io niente tablet. Ma come funziona però? È come l'iPad, uguale, cioè uguale, simile all'iPad. Va, cioè, va gestito, ma non lo so, c'è qualche cosa che non va comunque. È uno schermo, touch screen. Grande, grande, 10 pollici, forse anche di più, non 10 pollici, tu lì è come che c'hai un computerino e sopra ci fai tutto quello che devi fare, no? Ma gestirlo nel senso che come proprio come computer non credo sia proprio il computer, c'è qualcosa inferiore. È un po' diverso, ma è come un computer, avere un computer hai tutte qualsiasi applicazioni, gli scarichi come che il computer è uguale. Io ad esempio nel computer mio c'è un problema, neanche a fare la cosa, proprio stasera si è cancellata la scheda audio, mi dice che non c'è una scheda audio applicata, boh, non è che ci capisco più di tanto. Alla ricerca, tiri fuori la scheda audio, fa una ricerca e quando la trovi che ci sono tanti guai. Io ho le tip che ho tutto anche vista, ma non mi va. Ho inserito il tip che è il più facile per me, però c'è qualche cosa che non va. C'avevo una scheda audio, la sua scheda normale, poi ne ho applicato un'altra, un po' più potente, più buona, e questa è andata a sparire e non riesco più a cavarne piedi. Non riesci più a apparire e mi ritrovo questa scheda audio. È proprio quello che interessa a me. Da controllare, se vai sul pannello di controllo e poi lì cerchi applicazioni, dovresti riuscire a trovarla, no? cerca nuovo lì dovrebbe trovare, ma non mi chiedo piedi, purtroppo ho cercato, niente, non sono riuscito a capire da dove, come mai è sparita la scheda audio. Mi dice, non c'è scheda audio, il media player, cerca web, ma non si capisce. Disperato, Buonasera a tutti e buon Natale. Buonasera e buon Natale, a te Gianni. Ciao Gian, ben sentito. Avanti Ventura, già va a cosa, sorella. Ciao Leoncino, buon Natale anche a te. Buonasera a tutti quanti e un buon Natale. Buonasera e un Natale anche a te, Leoncino. Allora, ti sento disperato. Ho o volpe. Cosa c'è? Niente, praticamente stasera ho agganciato il computer, l'ho acceso tutto a posto, funzionava tutto bene, come i giorni scorsi, e improvvisamente è partita la scheda audio, non è partita che non funziona, si è cancellata, si è esclusa dalla cosa. Adesso devo chiamare il Montanelli. Dagli una telefonata e dici cosa fare. Lo so, quello sì, ma oggi, beh, oggi. Che ore sono? Oggi è Natale, non lo so, magari domani provo, domani pomeriggio. Ah, Antonio è sempre disponibile, non penso che ci siano problemi. Cappa, poi fai come vuoi. Ah, non si è. Se può ti aiuto. Sì, però cavolo, non è che ve lo posso oggi, mi avevano detto, ci guarda, ma c'è ora metti questo brano che Crisma, ecco, io l'avevo già programmato, accendo, e non si sente l'audio, vado a guardare, in mega player, non esce, cazzo, ma è una cosa incredibile, proprio il giorno di Natale che fa questa funzione qua, sono disperato, non disperato, stacciato più che altro. Può capitare, ma hai toccato qualche cosa senza volerlo, l'hai sfiorato e ti ha fatto cancellare. Ah, lo sta cercando, non è che. Oh mio Dio! E mi hai fatto bene, mangiato, bevuto, festeggiato, regali. Tutto ok, tutto ok, grazie a Dio, tutto ok. Abbiamo festeggiato, mangiato a gogo, scartato i regali, ci siamo scambiati uno con l'altro come tutti gli anni, dai. Già vabbè, cento di questi anni a tutti. Grazie altrettanto Fabio. Avanti c'era Leoncino, vabbè Leoncino tu cosa hai combinato? Qua. Sto ancora digerendo già, tra ieri notte e oggi, cazzo, oggi era pranzo da Nicco e cazzo, ho fatto una buffata, cazzo, che vedo c'è ancora sullo stomaco, cazzo. No, io ieri notte non è che abbia mangiato tantissimo, ho mangiato salmone con antipasto, poi abbiamo fatto la pasta alle vongole perché ho trovato le vongole fresche e ho fatto la pasta alle vongole, di seconda abbiamo fatto gamberoni e poi un po' di, diciamo, di cose, di frutta, tutto lì. E oggi è che forse abbiamo esagerato un po' là. E ancora non è finita, adesso c'è domani. Quindi ci sono tutte le cose di oggi, c'ho gamberoni, pasta, la torta, siccome oggi era anche il compleanno di mio cognato e quindi abbiamo fatto la torta grande, poi ce la siamo divisa, insomma c'è tutta la roba di oggi. Per carità. Queste feste sono la rovina delle persone che ti imbuffi e da voi non ce la fai a smaltire. Io sono stato male dopo pranzo, mi è venuto l'attacco di gusti, guai. Invece perché non ero più abituato a mangiare tutte queste cose mischiate, insalata di mare, insalata di antipasto di terra, e questo e quell'altro, ravioli e cannelloni, e questo e quell'altro, guarda, porcetto, e gamberoni, tutte queste cose mischiate, non ero più abituato a mangiare. E equivale anche a me, mi è venuto questo attacco, sono venuto urgentemente a casa, è la prima cosa che ho fatto, lasciate libero il bagno perché cazzo è mio. Ah. Come è che sei sceso, sei arrivato con i pantaloni già scesi? L'ascensore mi ha smontato il cinto, cazzo, ho aperto veloce la porta, urgentemente in bagno. Di grido, Fabri, intendo. Ragazzi, ne ha putti, magna bella cacca. Lo sai cosa succede? Quando mischi troppa roba e non hai l'abitudine di fare, io o mangio pesce o mangio carne, invece lì ho mischiato tutto, pesce, carne, antipasto, tanto via. E quindi poi vabbè, ho bevuto poco, la dritta acqua, Coca-Cola e un bicchiere di vino. Io già ieri qualcosa in più già l'ho succiato ieri notte, stamane alle 5:15 mi ha sculato la sveglia. No, anche domani mattina. Lo so, anche io. No, io domani no, domani dopo domani. E poi c'ho libero il giorno di Capodanno. Io la notte lavoro. Io c'ho tutto il giorno libero. Vabbè, ci voleva, dopo tutto il lavoro che ho fatto, erano contenti, mi hanno dato un giorno di festa. Giustamente, ci vuole un po' di riposo. E io la notte di Capodanno sto lavorando oggi. E dove? Al Barmarini. Vai a lavorare? K. Vabbè, ma un giorno, quanto è? Un giorno di lavoro. Sì, un sabato, hai capito? Vabbè, comunque non me ne frega niente. L'ho fatto l'anno scorso, l'ho fatto 2 anni fa e lo faccio anche quest'anno, non me ne frega niente. Ma c'è un capodanno diverso, hai capito? Tanto non ce ne sarà di gente, che c'è festa in piazza, ui ui. C'è il concerto, c'è in Piazza d'Italia già. E mai non ci sono, ma sono questo nausico. C'è cosa? C'è Daniele Silvestri. No, non lo conosco. Avanti, Volvo. Daniele Silvestri. Giuseppe, carità. Anche lui è bravo, dicono. Ognuno ha i suoi parametri. No, vabbè, per carità. Non niente circa a questi personaggi musicisti. Meticci in qualche modo, li chiamo io, per carità, non voglio essere io superiore a nessuno, però questi qui che vogliono fare un po' di soldi, loro vanno in giro qui alla Silvestri, ma carità, è meglio niente. Io conosco Pino Silvestri, pure. E beh, Silvestri non lo conosco, non so come ha con anni nei cigli. Giuseppe, sveglia. Cappa, non è quello, no, non mi veniva il nome, dai, non mi veniva il nome, so che si chiama Daniele, però non so il cognome, capito? Comunque, dice che c'è il concerto di Piazza d'Italia, poi c'è il concerto al quadrato di questi gruppo di... tipo come si può dire quel gruppo reg, hai capito? Ho capito, tipo Bob Marley, tipo Bob Marley, quella lì a quadrato. In Piazza d'Italia c'è quel cantante là, capito? Daniele Silvestri, quello lì, Pino, a Pino Silvestri, è vero. E Pino Silvestro, già, che visiani la prima cosa, materia che ci possiamo andare avanti, capito, le cartucce. Non è molto, però me lo faccio quella giornata lì, capito? Sì, fai bene, ci sarà da lavorare un po', ma fai bene, visto considerato che c'è la giornata fatta. Non sono pochi, no, sono 100 euro a serata, non è poco, no? Non è poco? Anche se non mi dà 100 euro, 80 euro me le dà tranquillo, tutti gli anni mi ha dato sempre 80 euro e quest'anno mi darà sempre, nuovamente 80 euro, capito? E lui quanti ne fa? Quanti se ne fa di soldi lui? Che te ne poteva dare 100? E non ne farà il doppio, hai capito? Ne farà il doppio, ne guadagna il doppio di quanto me ne deve dare a me. E il doppio? C'è un altro tipo, il quadro pure, con la gente che c'è. Direi non andranno tutti da lui, ma gli si lavora in quei giorni. vabbè, è proprio la notte e si lavora, capito? Tanto non so se inizia alle 10 o a che ora è, non lo so. Tu a che ora è? Io dovrei fare, e lo dico, guarda che dopo le 8 posso venire, dopo le 8, perché c'ho il bambino, dunque alle 8 io, 8 e un quarto sono lì. Va bene, ci devi fare notturno, va bene. Beh, sino alle 3:30, 4 di mattina. Vale, è un miserabile che ti imbriaga. Una volta c'era un concerto, mi ricordo di Chicca, se da lì, da quel bar lì proprio, abbiamo caricato questo tipo in coma etilico, dei paesi, c'erano i canti, boh, qualche cosa era di sardo, c'è. Che cappa, ovvia. E vabbè, comunque, vabbè da. Vediamo come va già, tanto, la questione è sempre. E poi martedì ci abbiamo un incontro con l'assistente sociale per quella questione là, capito? Capito, avanti. Oh, Fabri. Stavo ascoltando. A lavorare, però guarda, quando vai a lavorare non bere, non puoi bere in seguito, mi raccomando, luci, perché sennò senti lì tu siamo fregati, tu devi dire io per lavorare, mi raccomando. Andiamo a Capodanno a fare un leoncino. Quindi che lavoro, io so ci sono andato a farlo lavorare. Cappa. Ma io non ci so. Ma dove sei? In giro? Ma usi da amici. Dica, vabbè, non bere quando rientri. No, io non bevo, non sono un grosso bevitore. Sì, vabbè, però la notte magari qualche bicchierino ci si beve. Portiamo il karaoke e via. Sì, va bene. Poi potrei fare da volte, tanto da lì c'è la scheda audio buona, no, volte. Poi voltiamo. Magari un giro sta prendendo, date le immagini, mettere sulla piaga la pubblica. Vabbè, però le pubblica ne ho due, questo che è rovinato, lì grosso, e c'è questo problema qua, adesso c'è l'altro che mi salva in qualche modo, però è un casino. Non ce la farò tante quella musica. No, vabbè, la prefettura ce l'ho tutta su tutti e due i computer, non è quello il problema, è che mi trovo adesso che stavo cercando alcune cose per Capodanno, perché devo andare a Tula, a una serata di Capodanno, e non so come rimediare questa situazione, ma probabilmente andando mi sistemerà tutto. Vabbè, non ci piace solo, il verde è ancora c'è. C'è la gola. E devi riprendere la casa. Non ho sentito per niente. Sì, era in macchina, era tra la sera, poi c'è in macchina per riprendere la casa e poi non ha ripreso, magari c'è ancora la casa per stare. Stavo smaltendo l'imbriaghia. Siamo un po' tutti ridici di una grande abbuffata a pranzo che è indimenticabile. Lui ha problemi, lui è nella nuova alcolistica in questo gruppo, ha due sedute a settimana. Antonio, svegliati. Non c'è, forse sta facendo una seduta prima di bere. Una seduta spiritica magari. E quindi, bevemi, non poco, un bel, tanto che io vado a visite, queste visite, faccio queste sedute, quindi posso bere e se ne frega, capito? E poi vedete lì sulle scale vomitando. Ma se in ascolto già riprenderà pure. E se ce la fa schiacciare il pulsante, o dovrà chiamare la ragazza da dargli una mano. Già, tu non bevi, vabbè, però sei con me, un bicchiere di vino, non lo so, si beve così a pranzo, quando ci sono delle pietanze succulente, tipo un agnellino, e poi ci sono altre pietanze un po' così particolari, e via, uno, e due, e tre, ma senza ubriacarsi però, eh. trovo. Ieri notte non ho guidato io, l'ho fatto da Monello, dunque mi hanno portato dunque in giro per a trovare gli amici e bevi qua e bevi là, per fortuna stavo guidando io. E cazzo, mi sono fatto una. Mi sono fatto a una mina. Esagerato. Esagerato, qua abito, oh, lascia perdere, in condizioni ero, per carità. Quindi condizioni normali? Mai, guarda, te lo giuro che non mi sono mai trovato, guarda, non riuscivo manco a trovare il buco della serratura per entrare a casa. Anche la legittima ti sei bevuto. Te Fabri? Anche la legittima ti sei bevuto. Cosa non mi sono bevuto, per carità? È vino di Usini, spumatino, bracchetto, poi l'altro spumante, quello dolce, da là poi sono passato ad acqua vite. Ma leggero, mamma mia, guarda, per carità, perché stamattina avevo, c'erano gli uccellini che stavano dicendo ciu ciu ciu ciu, e beh, come va la testa? Se ti fa male, non bere, se ti fa male, non devi bere. E vabbè, viene una volta all'anno, mio Fabri, viene una volta all'anno. Vuoi anche un po' esagerare, quando non devi guidare. Quando devi guidare devi stare a tempo, devi bere solo la lanciata e Coca-Cola, Non ci accorta. No, quella roba lì non la bevo io, whisky e coca non le bevo. Se mi dici di bere vino, spumante e quell'altra cosa, sì, te la bevo, però whisky e coca, alcolici proprio, né amari, né whisky, nulla, basta, finito. Giuseppe ha finito di bere i super alcolici. E la tua vita che cos'è? Beh, l'acqua vita, ma non è che ne abbia esagerato Fabri, non ho bevuto un paio di bicchieri e basta, non ho bicchierini, quelli che si usavano, che tiravano nei paesi, quelli piccolini, capito, di vetro, quelli per il vino. Ascolta, ma quindi gli ultimi bicchieri li stavi bevendo col cucchiaio? Già. Perché già avevo un po' voglia di che condizioni ero, ma io faccio pure la borginica, non sono nemmeno reso conto. No, ancora è sano il mio cuoceo, il mio coso è sano. Perché? Non l'ha preso perché l'ha già preso l'anno scorso, quindi due volte non si può perdere. Ma questo è buono e poco, Fabri. No, stavo vedendo un attimino. E quindi adesso qui ti tocca a Capodanno, eh? Beh, mi tocca a Capodanno, però a Capodanno non bevo, perché devo lavorare, dunque devo stare tranquillo. Ehi, arrivi dopo le 4, ti fai una mina. E dopo il lavoro, sì, dopo il lavoro andrò a trovare degli amici a Milano, a Lulli. Dove è che Bulli? Lulli, ex che c'è. Prima chiuderanno le 6, 6 e mezza. Sì, ma va tanta gente in lì. E lo so, se no, allora, a coso, come cazzo si chiama l'altra discoteca, Bustar, oppure alla Santa Teresa, quella là, quella che c'è a Santa Teresa, chi è? La Giuseppe. La che c'è a Santa Teresa, cosa c'è di discoteca oggi? Santa Teresa, non lo so, non sono mai andato in quella lì. Comunque, vabbè, comunque, se ne ho voglia, tutto, mi va bene, tutta la stanchezza che poi che ci canesco da quel locale, dipende. E dove devo andare il giorno di Capodanno? Ma la notte o il giorno? O il domani? No, la notte. Allora ho detto, devo fare quella serata lì a Barmarini, Piazza d'Italia, perché c'è quel concerto, e poi alla chiusura, verso le 3:30-4, andrò a trovare quegli amici lì a Milano, al Wolle. Quella di cosa si chiama? C'è lo Santa Teresa lì, ma non è a Santa Teresa. Vabbè, ma andiamo a vedere che condizioni sono, capito? Perché tutto al dire, al fare sono due cose diverse. Stai facendo l'estasi? Quella stavo dicendo. Ma ti ripeto, a dire, al fare sono due cose diverse, dipende dalla stanchezza. Può darci che finisco lì e me ne rientro in un momento, me ne rientro a casa, perché secondo la stanchezza di ciò, poi... Vabbè, quello ho sempre sottinteso. Volpe, avanti. No, volevo fare una conta, Giuseppe, ma non è che all'estasi tu improvvisamente di notte vai lì ed entri, devi essere programmato, vale a dire che devi avere un biglietto d'ingresso già con un invito, perché sono un numero chiuso, io in quel locale ci sono stato, ma non in occasione di Capodanno così, figurati adesso. Già non si poteva entrare, io entrai a quei tempi per programmare una serata con un gruppo che andammo appunto tutto per programmare. Non è che tu improvvisamente da Sassari vai lì e non ti fanno entrare se non hai un biglietto di invito, quindi è un numero chiuso, capisci? Quindi tutti quelli che entrano in questo locale sono già programmati, più quel numero lì non entrano, ci sono già fuori, lì pronti per guardare il tuo biglietto di invito, e quindi se tu non sei già predisposto, un po' difficile, a mio parere, io mi sto esprimendo così, perché quando andai io a quell'epoca, una roba di 3 anni fa, era così, non so se le cose sono cambiate da allora, a te Giuseppe. Sì, Vito, c'hai ragione, però no, ma io ho detto e ripeto, secondo la stanchezza del lavoro è probabile che non faccia niente, capito? Me ne ritorni a casa, perché a uscire alle 4:30 di mattina dopo che ho fatto certe ore di lavoro non ti viene manco la voglia di andare a nessuna parte, capito? Sì, questo sono d'accordo, ma io volevo fare un appunto al discorso che se tu hai un biglietto di invito per andarci dopo che hai finito il lavoro, è un discorso. Se tu che ne abbi voglia o no, questo è un altro problema. Il problema è che se tu hai voglia di andarci lì, devi avere un biglietto di invito, non so se tu lo hai, mi confermi? Io ho capito, ma il fatto che il biglietto non è uno, non ci vado neanche, perché non mi interessa, no, se vado, o salgo, non te l'ho detto, o vado di via Milano, oppure salgo direttamente al bus a Aussi, poi, perché a Aussi conosco i padroni e mi fanno entrare, e dunque no, problemi non ce n'è, capito? Anche in via Milano conosco un po' di gente che mi fanno entrare, capito? No? E mi diverto, faccio un paio di ore e poi me ne rientro, capito? Sì, io ti credo, perché funziona così, perché adesso sinceramente adesso non io voglio, per carità, discriminare la tua posizione fisica, nel senso che quando ti sposti puoi andare dove ti piace, no, perché per questo non lo voglio dire, ma voglio dire che ci sono alcuni locali che per poter essere accessi a questi è necessario avere una certa programmazione, non voglio aggiungere altro. Giustamente tu a quello lì dove te ne vai lì, a parte che sono un centinaio di chilometri per andare lì, e poi stanco come te ne trovi e ti metti in macchina a fare tutti i chilometri, per che cosa? Niente, per nulla, ma per quello Capisco, ma a Sassari e faccio più bella figura e me ne rientro a casa, sto meglio coricato e domani me ne alzo. Allora mi pare piace a me e dunque me ne alzo tranquillo, capito, senza avere problemi niente. Aspetta, grido, lancio il mic a Fabrizio, a te. Ma riprendo io e passo avanti nel cuore, se pure c'è un po' di lesioni di testa, oltre così, cioè, sono le cuffie che ho troppo tempo in testa, poi se rientro, se non dovessi rientrare vi saluto tutti quanti e buon Natale nuovamente, mi ha fatto veramente piacere sentirvi tutti, poi magari ci sentiremo alle prossime, anche più tardi magari, dai. No, io ho telefonato, Vito, a Antonello stasera alle 4, non alle 4, per fare gli auguri perché dovevo andare ieri notte ma non ce l'ho fatta perché per le previste mi hanno invitato a cena. Gente, capito, sono andata a cena a casa di queste persone, dunque, e non ce l'ho fatta. E gli ho telefonato stasera e mi ha detto che lui stasera era impegnato, doveva aiutare il fratello a fare questa cosa della macchina, capito? Vabbè, ognuno ha i suoi problemi, quindi in qualche modo si riesce a risolverli, ecco, in qualche maniera. Il saluto Fabrizio che è andato in QRT, mi pare. Niente, vabbè, l'importante è risolvere questo problema qua. Noi oggi siamo frustrati da una serie di problemi che sono su elencare e che purtroppo comunque in qualche modo andare avanti, tutto qui è il problema. Poi delle cose che lasciamo dietro le ce le lasciamo in qualche maniera. Purtroppo corro male, ma l'importante è andare avanti, tutto qua. A te già. Io volevo vederti stamattina per farti gli auguri, poi invece anche io sono tacente a casa, le cose non siamo potuti uscire, poi avevamo invitato a pranzo e quindi una cosa ti ha trovato. E vabbè, non c'era problema, non c'è problema già, no. Ho detto, io sono salito alle 11, sono andato da mio fratello perché dovevo portare roba a casa sua e insomma, tutti quanti eravamo lì a casa sua all'ora di pranzo e dunque eravamo, e non sono tornato, erano le 3:30, 4, però c'ho un mal di testa che adesso chiudo e mi riposo un po' perché non ce la faccio adesso, stanno chiudendo gli occhi. Ruggero ci va ancora. Senti qua, come cosa, ho bevuto un bicchiere di latte stanotte e sono a posto oggi, per adesso sono a posto. Va bene, dai signori, io vado, rinnovo gli auguri di buon Natale. Ci sentiamo anche domani, se coincide. Una buona notte a tutti e passatela come volete stanotte di nuovo. Dai. Ciao ciao, quelli ti per me. Ciao ciao Giuseppe, ci sentiamo, buona notte. Ciao Giuseppe, ben ascoltato. Ciao, ci sentiamo, eventualmente alla prossima. Buonanotte e tante cose belle. Buon Natale e buon continuo. Pappagallo. E quindi Vittu, ti è successo facendo qualche serata? No, non mi è successo ieri mattina mi è successo questa cosa qua. Stavo mettendo un programma di canzoni e improvvisamente mi è apparsa questa videata che non c'è schedato. Quindi devo chiamare questo giovanotto. Quasi mio coetaneo, più piccolo di me, naturalmente. Tu sai quanti anni ha. Niente, probabilmente non risolverà il problema. Io a 3-5 minuti te lo metto a posto. Sì, ci credo. Non lo so, la scheda audio che la sua originale dava un difetto, dal tecnico che mi rivolgevo prima ha riscontrato che c'era un difetto, però non l'aveva resettato il computer, mi capisci? Quindi adesso, essendo fatto questo lavoro, probabilmente quella scheda sua originale funziona, perché questa che mi è stata aggiunta, infatti io ero disposto a ad aprirlo un attimino, a spostare le connessioni nella sua originale, e che facevo io, sai cosa mi faceva la sua scheda originale? Praticamente tu mettevi a suonare un brano sia suo di originale di un CD o sia suo un file messo dentro, a un certo punto partiva il brano sul da player. Dopo 4 centimetri di ascolto di brano, perché c'è un video da 24 pollici, un televisore ho messo, anziché un monitor, praticamente faceva una piccola interruzione, e partiva, a un certo punto cessava un istante e ripartiva di nuovo, ecco questo è il difetto che aveva. Quindi cosa ha fatto questo mio tecnico che me l'ha venduto? Me ne ha aggiunto un'altra esterna dietro, e però funzionava benissimo. Adesso però improvvisamente è scomparsa, non so perché. Ma non è che ti sei staccato qualche filo, che cosa? No, io non ho fatto niente, non ho fatto nulla assolutamente, improvvisamente io l'ho acceso ieri notte e mi ha fatto questo lavoro qua, cioè non funzionava la scheda audio, ma non capisco come mai, cioè se la sera, cioè a pranzo l'ho acceso, stava funzionando tutto quanto, il pomeriggio poi sul card l'ho acceso prima di andare via, ho voluto mettere in Facebook perché volevo vedere chi mi aveva fatto, mandato qualche messaggio. Io ho trovato questa soluzione. Oh boh. Vabbè, succede. Ma sono cose risolvibili, ti dici già nei problemi. No, è una cazzata, magari quando viene qui mi dice mette lì in un attimo la riattiva, ma proprio una cazzata. Ho provato a entrare in internet a vedere un pochettino, ma non sono capace, la verità, perché non è mestiere mio. E ci sono alcuni passaggi che se non li sai fai casino e buco. Come non saprebbero certi passaggi sul programma di registrazione che io conosco molto bene, che gli dicono come funziona sul programma di registrazione, e non sa nulla, e io lo conosco molto bene e quello non sa nulla, anche se non sta. Tutto vero, già ne conosci i programmi di cose ambe. Ma per dire, magari non è che lui sia un grande esperto, però lui, avendo una conoscenza computeristica di tutto quello che è l'ambiente, è probabile che ne capisca, magari tarderà un pochino, per la fine ci arriva. E io, se mi metto, ci impiego un mese, lui in 10 minuti, un quarto d'ora magari risolve il problema, quindi capito? Quindi non è una cosa difficilissima, e riesce a sistemarlo perché ha una conoscenza del software, non so che cosa ha, ma più di me senz'altro non sa. Beh, è un tecnico, ecco cos'è. Ma è manfrino, riesce a dice se avete detto questo, questo qua lo sai, no, e allora guarda ti metto anche questo qua, insomma mi sono accorto che una certa conoscenza ce l'ha, non so se tu l'hai provato, hai avuto modo di conoscerlo. A chi, Antonio? No, ma nel senso conoscerlo non di persona, conoscerlo, a parte di persona che l'ho conosciuto qua, che è stato eccellente, ecco, se lo conosci come conoscente del computer. Io avevo già qualcosa, se non te l'avrei consigliato, se non l'avessi conosciuto non ti avrei detto è molto bravo. Lo conosco, mi ha resettato il computer, mi ha fatto altre cose, è a casa e mi ha sempre trattato bene, perché siamo amici, quindi lo conosco come veloce, te l'ho detto, se c'hai acqua vite, lui va acqua vite. Che c'è acqua vite, ma sei già stato? Io ho regalato una bottiglietta, come ho detto quello, c'avevo una bottiglia che era appena un po' aperta, una volta l'avevo offerta un bicchierino a un amico, io l'ho regalata, gli ho detto, guarda, questa è per te, contentissimo. Cappagatta, e dispiace. Ma abbiamo assaggiato anche il vino buono qua che avevano portato da Badesi, infatti gli è piaciuto molto. No, di questo non ne ho, di questo è pochissimo, ci sono messo due bottiglie, però in, la, non la comita, la grappa che mi hanno regalato da un paesino qua vicino, fatto artigianale, che gli è piaciuto tanto. Un vicino, no, ma devo viaggiare, ah fregata, bevi tanto perché la prendeva come un po'. Lo so, a casa cucina cucina se la prendo un litro. È bravo, però a un certo punto poi dice, ma adesso non sono più lucido, perché se incomincia, prima bisogna farlo lavorare Antonello, dopo che ha lavorato poi si può, perché se incomincia a pomparlo prima, poi magari lasciare la situazione non è. L'occhio no, l'occhio, l'occhio destro. È bravo, una brava persona, io ero anni che non conoscevo, proprio un uomo gentile, a parte il discorso che abbiamo avuto anche in colloquio da vicino, un rapporto proprio di racconti di genere familiare che ci siamo scambiati e che mi ha risultato come un uomo sano, un uomo di concetti, di principi sani, quindi ecco perché questo lo dico. No, io lo conosco una vita, ci ho frequentato in Grecia con lui, non so se te l'ho detto, ci fammo insieme con le ragazze, eccetera, conosco molto bene. No, no, non mi ha parlato così, qua abbiamo parlato soltanto di cose nostre, eccetera, eccetera, di lavoro, eccetera. No, niente, in particolare abbiamo registrato anche tempo perché lui era sempre agganciato al computer, quindi non si è stato lo suo tempo così. Alla registrazione dello scambio poi quando faceva dei lavori che ci siamo praticamente districati a berci qualcosina così senza niente di particolare. Lui è di Cotti, lui si Cotti, diciamo ci sono venuti mezza bottiglia di vino così, ridendo scherzando, ma era una cosa, ti rappresenta che quel vino che ci siamo bevuti era un vino sano, per cui non c'erano problemi di cottura o cose del genere, erano tranquilli. Ti rappresenta che una bottiglia, tu immagina una bottiglia, non un bottiglione, una bottiglietta da quelle classiche bottiglie di vino che si vendono nei cannonaudi di qua. Però io, un bottiglietto da me, metà, quindi erano praticamente si può considerare due bicchieri via, non più di due bicchieri, perché la quantità è quella che è. Ma, scusa un attimo, devo rispondere al telefono già. Già. Via. Torna. Paga, roba avete ben dalvata. Nulla, gente che. Mamma mia. Poi mi sono perso. Liga il telefono e poi chiudono così. No, non è che chiudono, gente che non sa che cosa fare. Dice ci sei a casa? Sì, ci sono, ma sto uscendo. A quest'ora. Hai capito? E volevo venire a trovarti a quest'ora e... Mamma mia, come fai? Caspita, io sto arrivando là, ero invitato a casa di mio cognato, alle punti, eravamo lì, abbiamo... Adesso io arrivo qua a casa, un'oretta tranquillo, mi voglio rilassare e io che voglio venire a casa. Mamma mia, ma non lo so, ho detto no, sto uscendo, sono invitato a cena, ti liberi, no ma scusa. Non c'hanno bocca. ieri stavamo cenando e è venuta gente, ci hanno visto mangiando, li abbiamo invitati, se volete sedervi, no, stiamo andando, però continuavano a parlare, noi mangiando e loro in piedi, e ho detto no, io non ci riuscirei a fare certe cose. Porca miseria, ma come mai non ti accorgi? Non hai il senso del dovere, ma è mai possibile che tu ti inserisci in un ambiente che sono tutti lì tranquilli, pacifici, sì, anche se tu puoi essere un cognato, un parente, ma se tu non sei programmato a stare lì, ma perché non ti sei organizzato prima? Se tu mi chiami con un tempo, io ti invito, ma santo cielo, ma tu, io sono a casa, tutto pro, siamo in 10, arrivo tu in 4, ma noi siamo programmati per 10, perché non mi hai chiamato prima, il giorno prima, dicendo, cioè, guarda che vorrei venire a casa tua, ecco, io mi organizzo un attimino, ma se non siamo tutto organizzati già, stare lì, infatti come tu veni prima, in piedi, mamma mia, ma cosa ci fai, cavolo, ma possibile non hai il senso, ma cosa c'è nel cervello? Io mi trovo in imbarazzo, sinceramente. Ma c'è gente che faccia di culo, non so nemmeno come definirla, perché la inviti io, sì, quando li vedo busati, mangio anch'io tranquillo, ma quando vedo questa gente in piedi che non si può sedere, che si fuma la sigaretta mentre tu mangi e cosa, mi gira già le scatole. La verità, poi ho smesso di fumare, mi dà fastidio il fumo, e vengono gli altri a fumare a casa mia, Proprio sigaretta, se uno si permette di fumare a casa mia qui dentro, dove sono io adesso, a parte dove sono io adesso è una stanza particolare dove io modulo, è uno stanzino di 25 metri quadri dove ho tutta la sezione qua, e qua non c'entrerà mai nessuno, a parte non c'entra nessuno, lui non può c'entrare nessuno, ma a casa mia arriva uno che si mette a fumare. Prima di tutto prende il calcio in culo, proprio detto volgarmente, che lo prendo calcio in culo, chiunque sia, fratelli, i miei fratelli, nessuno di me fuma, e questo non può accadere, ma un cognato che sono a fumare, ma stai scherzando, ma ti prendo a calcio in sedere, ti do una bastonata in testa e non ci ritorni più qua da me. Ma non solo, ma io non verrò mai più a casa tua neanche a trovarti, si è cancellato a vita, chi fuma è morto. Proprio tassato. Non puoi fumare, è veleno, velenissimo, guai, io lo odio a morte, io gli fumatori li escludo a priori, no, ma purtroppo non ho sopportato, è la verità, devo dire una cosa, guarda che l'educazione che ha avuto Antonello è stata capillare, allora lui arriva lì, si mette la sigaretta in bocca, era dentro, qua, nel computer, si mette la sigaretta in bocca, e tu cosa stai facendo? Non ti preoccupare, educato, sei andato fuori, fumato fuori, all'aria aperta, tranquillo, si è fumato la sua sigaretta e poi è entrato, ma lontano, non vicino alla porta, lontano, questo per dire, no? Ma non gli ho detto, non l'ho rimproverato perché sta fumando, no, gli ho detto, cosa stai facendo? Non ho detto solo questo, ma lui già, cioè non ti preoccupare, io mai mi permetterò di fumare all'interno di una casa, nell'abitazione di un amico o chiunque, perché all'interno io non fumerò mai. È stato di un'educazione eccelsa. Perché magari uno che fuma non ci pensa, ma io anche quando fumavo a casa uscivo in terrazza a fumare, non ci fumavo mai dentro casa. Sì, già, però io due cognati che fumano come turchi, come se i turchi fumassero, che sai che, e poi i turchi è un modo si dice. Però questi due miei cognati fumano e si sono permessi di fumare qui dentro, dove sono io, non dove sono io adesso, nell'ambiente circostante a me. Ho detto, scusa, cioè, per favore. Abbi pazienza, mi dà fastidio, no? Ah, c'è una di varie mani, perché sono di un paesino qua vicino, se vale varie mani, sì, insomma, abbi pazienza, metti di fuori, facciamo questa cortesia, perché guarda, non lo sopporto, abbi pazienza, scusami, ma è così. Sai che questo qua non, questo mio cognato fa un po' il furbetto, cerca di essere un po' offeso. Oh, perché gli hai detto questo? Se è male offeso, devi essere tu, che lui non è stato educato a accendersi la sigaretta senza chiedere posso fumare. Fa un po' offeso, però lo sai com'è, no? Siccome c'ho qualche anno più di lui, gli ho detto, ah va bene, no, non ti preoccupare, se vuoi puoi fumare lo stesso, però sappi che a me non piace. E però si è offeso e praticamente questo tipo qua sta facendo finta di non farsi sentire più, rimane lui l'offeso. E gli ho mandato a dire che se ha la parte offesa io me la frego nel culo. Mamma diceva la parte offesa si dà il gatto. Era una foto nuda, io qua a casa non ci fuma nessuno, si deve fumare con me a casa tua. E non solo, ma addirittura siccome una volta ero stato a casa sua e lui si è messo in cucina a fumare con le sue figlie le piccoline, e io ce l'ho mandato in affanculo, gli ho detto ciao, me ne sto andando. E cioè perché no, è tardi, abbi pazienza, però non sopporto il fumo, te lo dico, scusami, ma me ne sto andando. Dice, ma curioso, grazie, perché parla in diretto, non lascia perdere, e me ne sto andando, ciao, scusa. Anche per i bambini bisognerebbe avere rispetto. Bambini piccolini, bambini di 8 anni, eccetera, eccetera, detto, ascolta, fai una cosa, tu continui a fumare, fregatene, che io non voglio respirare l'aria buona, già non respiriamo l'aria sana, che non è molto sana, quella che respiriamo fuori, e io mi devo inquinare l'ambiente dove vivi tu, perché... Ma io quando fumavo c'avevo sempre mio figlio che adesso ha 10 anni, quando aveva 8 anni mi diceva sempre, papà smettila di fumare, fa male alla salute, questo te l'hanno detto anche a scuola le maestre, che fa male alla salute, mi assillava, se non mi poteva accendere una sigaretta perché veniva mi diceva ancora. E quindi in qualche modo è sganciato. No, io questo problema qua anche l'ho, perché io devo dire la verità, che c'è mio figlio che ha 36 anni e fuma, alla verità, però sai cosa fa? Non ha mai fumato davanti ai miei occhi, perché sa che se lo vedo fumare lo sbarro. No, io ho smesso e sono fiero di averlo fatto, perché uno che fa male, poi si impreghia tutto il fumo, un odoraccio, guarda, adesso che non fumo me ne accorgo, quando entro nelle case dove fumo sento un odoraccio stranissimo. Guarda, mio figlio lo conosce Claudio, io sono andato una volta a Cagliari a fare una partita, non so, però dicevo la verità, non fuma davanti a me, all'età che ha paura di vederlo fumare. Perché questo? Perché io ho incontrato che il fumo è pericolosissimo. Allora lui siccome sa che io lo odio a morte, queste cose qua, allora cerca di fuma, non so che fuma, però fuma fuori, esce fuori di casa, si mette nascosto, addirittura nascosto, non si fa vedere nell'ombra degli alberi, cioè un boschetto qua, si mette nascosto per vederlo. Lo faccio vedere, è rispettoso, dai. No, va, non gli piace che lui sa che io odio queste cose qua, e lui in qualche modo si nasconde, insomma, fanno vederlo, e poi le cicchie lo vede per terra, sotto l'albero, quindi le butta lì. Lo scavino a perché le cicche non sono scorse, le butta, quando puoi entrare, devo dire, adesso con freddo che c'è, dimmi tu, questa gente, tu vedi, al bar, escono fuori e si mettono, a parte le cose, no? Tu, ad esempio, un bar che frequento io, non li frequento spesso, qualche volta ci vado per caricare il telefono, eccetera, si mettono nella porta, i fumatori, ma perché ti metti nella porta, porca di una miseria, vattene lontano, vattene a 10 metri, 15 metri, ti metti nella porta, proprio davanti alla porta, il vento, all'interno il fumo va dentro il bar, tu quando entri dentro il bar senti il odore del fumo, ma cavolo, ma quello spazio che c'è, ma perché non te ne vai lontano, fuma là a 50 metri e poi ritorni lì dopo che hai finito di fumare, no, si mettono proprio davanti alla porta. Anche il barista se c'è la sigaretta, il gestore proprio del locale si mette a fumare, perché lui fuma e si mette davanti alla porta. Ma perché sei venuta? Sì, d'accordo, sei lì, ma tanto stai fumando, non è che ti spegni la sigaretta, perché la gente entra, quindi lui deve entrare. Perché ti metti proprio nella porta? Sei uno stronzo. Perché poi per il contrario te la butta dentro. Ma sì, ma adesso non è che mi andare molto, tu vai qui a Canica, da Colombano, che io spesso vado a caricare il telefono, eccetera, tu vedi, sono in quattro, fumando davanti alla porta, ma proprio attaccati alla porta, non è che sono lontani a 10 metri, se ne vanno dall'altra parte dello sabile, no, proprio lì davanti alla porta, ma cavolo, tu fa, addirittura devi chiedere prima se puoi entrare dentro, loro sono lì in quattro, davanti alla porta, ma perché non ti allontani, è brutto stronzo. bisogna se non c'è arriva. Io una volta ho visto una storia in Piazza d'Italia a un concerto, questo stava fumando e stava dando fastidio anche a me il fumo tornava indietro e dava in faccia a questa signora che gentilmente gli ha detto scusi ma può spostarsi perché a me il fumo dà fastidio, questo si dice detto a me cosa me ne frega, io sono all'aperto. Sì, perché quello che ho detto adesso l'ho fatto a questi qua, gli ho detto ma ragazzi non è perché mi avete detto a fermare quello che dice, no non potete fare, io non l'ho detto pure, non ci sei andato. Sì, se rispondono lui gente che fuori non ha rispetto per niente. Però in altri tempi, già se fosse stato come la penso io eccetera, ti metti davanti alla cosa, ma non c'è problema, con il manganello glielo sbatti in testa due o tre volte a tutti e quattro e lì sei tranquillo che una volta che il manganello arrivava in testa non si mettevano mai più. Io non bisogna essere sempre voglia di fuori con questa gente, non riescono a capire, a percepire, a avere l'educazione e dire sì io sono fumatore, però non è giusto che obblighi gli altri a fumare. No, ma sono, non sono ineducati, neanche che fumano, sono, non hanno il senso del rispetto proprio nei confronti degli altri, perché se avessero un tantino la cervice sana, probabilmente loro non si sarebbero comportati così. Ah, io quando fumavo la verità avevo rispetto per gli altri, se andavo in una casa che mi dicevano ah oh, fuma tranquillamente, no ma mi dà fastidio, vai fammi fumare fuori, no fuma tranquillamente che qui fumiamo, no non mi sentivo a mio agio, capito? Sì, ma il discorso è che, ad esempio, 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, tutto era tranquillo. Quando c'è stata questa lotta e questo contesto al fumo, ma porca miseria, ma quando mai devi ancora fumare? Ma già l'aria che respiriamo, se è stato riscontrato che il fumo è cancerogeno e porta tutti questi problemi qua, ancora non riesco, proprio è una questione di cultura, non riesci proprio a capirlo, perché c'è un'ignoranza che è capillare, non riesci a entrare nel cervello del fumatore. Non è solo cancerogeno, cottura le arterie, fa venire trombosi, fa venire infarti, eccetera, eccetera. Non è così, non è solo per i tumori, ne fa venire mille di malati. Fatti lo gondo. Avanti Luca, buonasera. Mi sembrava lui, vabbè, è così, capito, Vito. Sì, ma per carità, i fumatori, io non capisco, puoi fumare, ma fuma, proprio ti vuoi uccidere, fuma all'aperto, te ne vai, lo riaperta, te ne vai nel bagliolo, invece dentro casa, ma tu ti immagini sentire dentro casa questo tanfo, ma è un tanfo che dà un fastidio in certe macchine, io conosco delle persone che fumano dentro, dentro la macchina c'è una puzza che non si può respirare, dice, se non posso dire, ma lascia perdere, guarda, non ti preoccupare, no, ma è un arrangio, un campo, in protezione più chicche, in protezione mai, tutto pieno, addirittura non c'è stata più neanche una di chicche spenta, e lui non si degna di più delle protezioni a svoltarlo. Un campo di nicotina, di una puzza paurosa che non si può neanche respirare dentro la macchina, e lui è tranquillo, però ti vuole un passaggio. E qui c'è tutto ingiallito dal fumo, con la nicotina attaccata ai vetri, e lo so, io non ho mai fumato in macchina, ma quando ero fumatore, ve dico la verità, mai. Siete voi, guardate le dita sono gialle, certo, le tagliate, quella troppo che ci ha portato, tagliate le dita. Sì, io mi ricorderò sempre di una volta che sono andato a lavarmi la macchina con un amico, la mia l'ha lavata tranquillamente, rotta questo amico mio. E mi ha detto, il lavagista gli ha detto, ma di quanti anni continua c'è questa macchina? Questa qua poi si attacca anche i polmoni, l'ha fatto, cioè il lavagista l'ha fatto ragionare, ha detto che si attacca anche i polmoni, e sa tu le va, questa qua ci vuole un coso speciale, un detergente speciale, bisogna stare ore e ore per toglierlo dai vitri, guardi la roba che ne sta uscendo, ma a me non mi diventava lo straccio giallo. Io perché già io non so ancora come fanno molti a fumare ancora, ma dico io, prima non c'era questa conoscenza, ma perché cavolo ci metti questo fumo dentro lo stomaco e poi lo tiri fuori, ma che cosa ti serve? È un vizzaccio che non serve un cazzo, ti dà nessun boh, in effetti non c'ha nessun senso buttare, se ci pensi tutti fumati e brutto di fumo, ma che senso ha? Questo, il discorso è solo questo qua, cioè se si capisse, ma io magari qualcuno in ascolto e fuma, io mi rendo conto di una situazione, è un viziaggio, perché è una droga, a dir la verità, che in qualche modo è anche una droga, per carità, però i drogati, perché non devono cercare di smettere? E questo è il problema, perché alla fine ti porta alla morte. E come una droga? Prima le sigarette che facevano negli anni 60, negli anni 50, erano dei tabacchi genuini, anche se erano anche loro contraffatti. I tabacchi di oggi contengono delle droghe proprio per... Si stanno addirittura aumentando, i fumatori stanno aumentando, le donne sono in aumento. Perché? Perché c'è una sostanza inserita nel tabacco, proprio tipo droga, e quindi questi a mano a mano che prendono il fumo non ce la fanno smettere, e quindi questo è il problema. Quindi se avessero disintegrato i procuratori... Ma io non voglio fare, diciamo, il coso di Ciliado, il coso, però, perché ho fumato anche io, però anche quando fumavo rispetto per gli altri ce l'avevo, pensavo che potessi dare fastidio a uno, all'altro, non fumavo in macchina perché, oltre che intasarsi tutta quanta nella mocchetta e roba del genere, e tenere accumulare la pazza, dovevano sedersi i miei figli e mia moglie, quindi loro non fumano, quindi era giusto che rispettassi anche le loro opinioni. Sì, ma è il discorso della puzza proprio, perché quando ti sei in una macchina che uno ha fumato, anche donne, l'altro giorno sono seduto in una fuoristrada, ma per pochissimo, per breve percorso, c'è una puzza dentro la macchina che fumava questa ragazza, questa donna. Ma cavolo, tu ma cosa cavolo come fa? Ma non ci sono tutte le sigarette, ci parli bene tu, sì, parlo bene, e perché io non fumavo? Io sono 40 anni e non fumo, e ho messo, perché mi sono accorto che era una stronzata, e anche tu sei stronza. Ma che ho visto? Come? Perché domani a parlare, ma uno che c'ha il vizio... È un po' difficile togliersi dal tutto. Ma io, però ti volevo fare un piccolo punto. Allora, in Italia nel 1970 fumava il 37% dei fumatori, ok? Allora, 1970. Nel 1980 hanno diminuito, praticamente sono andati dal 37% al 32%. C'è stata una diminuzione. Quindi nel 1990 il 25%. Questa diminuzione c'è stata, capillare, determinata, però adesso siamo arrivati al 15% ed è ferma. Ferma perché? Perché alla sigaretta hanno aggiunto questa droga. Questa droga qui è una droga che c'è inserita nel tabacco, quindi non si riesce, come è che tutti i rubi è quella classica droga che nella sigaretta c'è, purtroppo è inculcata nel tabacco e quindi non ci si riesce a mollare. Tu ci capisci? Oh va! Non c'è niente. No, va bene, questo microfono qua è un po' baloso, eh? Cosa aveva? Te l'hai fatta giusta le dai, c'è quello lì o no? No, il microfono non è sempre questo. No, l'apparato c'aveva in tiki, se non andava bene. E me l'ha aumentato anche un pochettino come vantaggio. Dovrebbe andare bene adesso, non so come si sente. Non mi ha ascoltato forse. E tu? Non mi hai ascoltato forse? Prova a parlare. Ma non sono sito di radio? Io sono assolutamente... La radio sento che sta uscendo, eh? Vabbè, io ti saluto, mi sto per addormentare. Ci sentiamo, Vittu. Ti auguro buonanotte e diciamo buono continuo festeggiamento. Se questa radio sta uscendo o no, questo qua volevo sapere. Sì, adesso sì. C'è qualche problema di comunicazione circa una regolazione? Aveva fatto una scarica, capito? Ehi, perché questo microfono qua non è che non funziona, ha bisogno ogni tanto di una ripetizione. Guarda, adesso forse sta uscendo bene. E ha fatto delle scariche. Ok dai, già, ci sentiamo le prossime, buon proseguimento di serata, buona cena se la farai, spero di sì, ci sentiamo, dai, tante cose belle, ciao Vito, no, non ce ne può nemmeno fare, c'è la moglie che sto portando e voglio stare leggero. Beh, anch'io, infatti, mi farò una leggerina, mangiatina, ma proprio leggerina e poi andare. E anche ho fatto così, ho mangiato un po' di verdura cotta e buona. Ok, ciao, buonanotte, tante cose belle. Buonanotte.